Elog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Go down to the touchdown point tomorrow. Finally, you can go to the touchdown point. Never mind two. Les opérations ont été retardées de deux heures à cause des forts orages qui se sont déroulés cette nuit. L'operazione di par buckling si è conclusa. La rotazione ha esaurito tutta il suo percorso. Quanti di voi sono rimasti alzati questa notte a seguire il par buckling? Qualcuno l'avrà fatto sicuramente, anche se fino al momento fatale, alle 4 di notte, in cui il capo della protezione civile Franco Gabrielli avverte e dà la notizia che finalmente ha raggiunto il suo asse e il Costa Concordia, probabilmente era piuttosto monotona la rappresentazione televisiva. Eppure calamitava, eppure siamo rimasti tutti una parte del nostro tempo a guardare qualcosa che non accadeva nella velocità percepibile dalla nostra pupilla. Lentamente, grado dopo grado, con i soliti rumori, con il cambio di inquadrature, la nave usciva dall'acqua e usciva fuori la sua parte oscura, la parte nera, la parte nascosta, la parte che probabilmente contiene, almeno nel nostro immaginario collettivo, tutti i non detti, tutti i bocconi mandati giù. E poi al di là della cronaca, della gloria, del momento di grande sollevazione, esiste la riflessione generale da fare su questo evento. Ieri ci scherzò Enrico Mentana sul suo profilo Facebook. Voglio dire, sarà il gonzo che per primo trovrà delle metafore legate al Costa Concordia. Beh, lo seguì subito a ruota Roberto Saviano, che disse: se si raddrizza la nave, simbolo di un paese alla deriva che lentamente affonda, c'è speranza che magari si raddrizzi l'Italia, come se ci fosse la possibilità di fare una sorta di grande, immenso, collettivo e nazionale rito voodoo, e che sollevando la nave, raddrizzando la nave, come se l'orgoglio nazionale, dopo una brutta figura, finalmente erge raddrizzato, erge nel suo splendore. Beh, questa mattina noi seguiremo questo doppio filone. Da una parte vi racconteremo a tempo reale quello che sta accadendo in quel momento, visto che è il punctum, è il luogo in cui sono convenute televisioni da tutto il mondo, è un grande evento internazionale. L'Italia, che era stata derisa e risa, presa in giro al centro delle barzellette, dei doppi sensi, era stata schettinizzata, come se nel simbolo dell'uomo, che in questo momento nessuno vorrebbe avere come compagno accanto, su cui è condensata tutta la responsabilità, tutto il peso, tutta l'attenzione rispetto a quello che sta accadendo, potesse rappresentare la parte peggiore dell'eteria infarcita di ogni luogo comune del nostro paese. Però allo stesso tempo vorremmo anche voi rifletteste, senza paura, senza temere di essere dichiarati gonzi da Enrico Mentana, che piace, a cui piace giocare appunto con i paradossi, e cosa voi fa pensare questo momento. Lo abbiamo molto riflettuto al tempo del naufragio del Costa Concordia, su quello che significava vedere quella nave appoggiata su un fianco in una delle nostre coste più belle, e oggi vi sentite anche voi coinvolti, vi sentite anche voi rinvigoriti dal grande raddrizzamento. So che nelle mie parole esistono sconci, doppi sensi, ma questa mattina Varo nella sua vignetta ha fatto vedere un signore che buttava le pillole di Viagra di Berlusconi sotto la nave, tentando di assimilare quello che è l'orgoglio più intimo e più glorioso del nostro retaggio nazionale e l'idea che finalmente la Costa Concordia se ne stia in piedi. 800 24 0024, cominciate a chiamare. Oggi veramente questo è un successo che possiamo ascrivere a questo paese, nella sua componente privata, nella sua componente pubblica, nella sua intelligenza ingegneristica, e questo credo che una volta tanto ci debba, come dire, anche inorgoglire. Non si potrà dire che il cornetto di stamattina non era con la marmellata. Questa è una frase che abbiamo già sentito poco fa al giornale radio, presa dalla nostra collega Raffaella Calandra, e Nicopri, il presidente del consorzio che ha effettuato questo grande evento, che anche da un punto di vista proprio ingegneristico è molto interessante. È il più grande cantiere a cielo aperto che a tempo reale abbiamo seguito compiere un'operazione comunque di ripristino. Raffaella Granda l'avete sentita in questi giorni, ha seguito anche lei passo passo tutto il recupero, tutto il raddrizzamento grado dopo grado, e questa mattina è in collegamento con noi per continuare a fare questa cronaca. Raffaella, buongiorno. Buongiorno Gianluca, te, battiti di mani, sento battiti di mani alla tue spalle, cosa succede? Applaudono alla conferenza stampa che è da pochissimo iniziato qui sotto il tendone del porto, dove ci sono tutti i rappresentanti e i coordinatori di questo progetto. È appena finito di parlare il commissario straordinario Franco Gabrielli e il presidente della Costa Foschi, e in questo momento sta cominciando a parlare quello, uno degli eroi del giorno, che è appunto Nick Sloan, che è il grande regista di questa operazione dal mare, dalla chiatta Polluce. E ci sono tanti, oltre ai due giornalisti c'è praticamente mezzo Isola del Giglio qui sotto il tendone, e per questo hanno applaudito il momento in cui il presidente della Costa ha voluto anche ringraziare la presenza e la collaborazione appunto anche degli abitanti dell'isola. Quindi l'impressione generale, Raffaella, che in questo momento l'operazione ha avuto veramente un suo ruolo taumaturgico quasi magico. Non si parla più di vergogna nazionale, non si parla più di onta, non c'è questa ferita visibile, questa sorta di dileggio continuo su cui tutti ci hanno preso in giro. Il fatto che in tempi stabiliti, secondo i piani, anzi anche meglio, con un risultato ancora più felice rispetto ai piani, siamo riusciti a rimettere in piedi la Costa Concordia. Ma mi parli un po' del vero personaggio. L'operazione immagino che sia targata Italia, quindi noi siamo felici e tutto, però il vero eroe, colui che è stato nella plancia di comando per tutta la notte, è un sudafricano. Tu l'hai anche intervistato, che tipo è? È un sudafricano simpaticissimo, 52 anni, e la prima cosa che ha detto quando è sceso da questa chiatta, dove è rimasto per 20 ore, era che aveva bisogno di una birra per festeggiare e per rilassarsi. Abbracci, baci, allegria con tutti quanti, e anche le comunicazioni che io ho avuto modo di conoscere, diciamo, che ci sono state in queste ore dalla chiatta di fronte alla Concordia, con invece il centro, diciamo, decisionale che era a terra, erano anche comunicazioni anche molto, molto scherzose. Nick Sloan è appunto stato acclamato dal Giglio come davvero con cori, applausi, abbracci, come il salvatore non solo diciamo del futuro del Giglio, perché dalla riuscita di questa operazione è dipesa anche un po' la serenità di un'isola che temeva di veder compromessa la sua vita basata sul turismo, basata sul mare, ma anche, come stiamo ricordando, come hai sottolineato giustamente tu, l'immagine di un riscatto da questa stessa isola dove un anno e mezzo fa in Mondovisione erano partite le immagini di un naufragio terribile, con tutto il contorno anche dei personaggi, a cominciare dal comandante Schettino, che sono venuti fuori da questa storia della Concordia. Da questa stessa isola e ugualmente in Mondovisione sono partite le immagini che hanno raccontato di questa lenta riemersione della nave, esattamente così come doveva avvenire, con una precisione che adesso i tecnici due istanti fa in conferenza stampa hanno detto neanche noi forse ci aspettavamo, perché è caduta esattamente laddove era calcolato che si appoggiasse, e quindi forse una precisione che quasi noi stessi italiani a volte non ci riconosciamo. Io ho intervistato il presidente della Micoperi, Bartolotti, che abbiamo sentito prima. Lui diceva quelli l'anno scorso, un anno e mezzo fa, c'è stato un naufragio che è stato un incidente che va considerato come tale, questo è un riscatto per l'Italia, che deve anche un po' smetterla di piangersi sempre addosso, le cose le sappiamo fare. E anche Foschi ha esordito la sua conferenza stampa poco fa, oltre che con il pensiero delle vittime, compresi i due dispersi che sono ancora custoditi da questo lato oscuro della Concordia, anche sottolineando appunto la capacità dell'Italia di riuscire quando vuole a portare a termine anche missioni mai tentate prima, come questa operazione che non ha precedenti, salvo un caso simile nella seconda guerra mondiale a Pearl Harbor. Diciamo che l'operazione, anche da un punto di vista mediatico, ha funzionato. In questo momento abbiamo creato un grande evento a compensazione di un evento che in nessuna maniera sarebbe stato possibile comunque di nascondere o mascherare. Sento i primi ascoltatori, poi Raffaella ci racconterà quella che è la sua impressione. Voglio capire esattamente la differenza fra il tramonto di ieri e l'alba di questa mattina. Rosella, però, buongiorno. Buongiorno, io vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, perché è vero che il tramonto di ieri sera era molto triste, l'alba di stamattina è molto bella. Ma lei c'era, Rosella, o l'ha visto in televisione? No, io non c'ero, e però... purtroppo no, e però vorrei dire che ancora una volta spunta lo spirito italiano in questo riscatto, e cioè... Che è anche il nostro, però è anche il nostro. Sì, di tutti, però politicamente non siamo assolutamente cambiati, perché il... Vabbè, mica d'atto magico, ho detto, mica una bambolina voodoo che uno infila lo spillone e cambia qualcosa. No, quello va benissimo. Il discorso è che non riusciamo a vedere oltre il nostro naso, cioè questa nave che è stata lì un sacco di tempo è stato oggetto semplicemente di un progetto di recupero, ma tutto ciò che viene dopo... Vabbè, lei vuole fare un discorso ingegneristico, non ho capito cosa vuol dire. No, non si sa dove importarla per la distruzione. Vabbè, adesso la taglieranno, la faranno a pezzi, non si preoccupi. Ma dove? Vedete che ancora non si è pensati nemmeno dove, in tanto tempo... Ma non lei è convinta che chi investe tutto questo denaro, queste risorse, sì, e mette la faccia in questa cosa, si porrà il problema e poi alla fine dove la porterà? Rimarrà lì, penso, però, fino a prima... La lascia lì ancora come monumento. Vabbè, Rossella, si fermi un attimo, poi rivediamo se Raffaella Caranda ha qualche elemento. Lei già mette le mani avanti, dove la demoliranno, poi come la faranno a pezzi, chi si prenderà i pezzi. Fermiamoci un attimo al fatto che intanto sarà spostata da lì, mi sembra già un passo avanti. Giorgio. Buongiorno a tutti. Sì, è vero, mi sembra davvero un passo avanti, quantomeno visivo. Può essere un gesto che può rincuorarmi, mi faceva sorridere la similitudine che veniva fuori dal fatto di raddrizzare anche l'Italia, così come hanno fatto con la Concordia, anche se mi è sembrato l'ennesimo affidarsi a qualcuno, qualche Superman che arriva da lontano e risolve le sorti dell'Italia. Quando in verità, forse oggi perché mi sento abbastanza... Abbiamo una visione magica dell'esistenza, che basti fare un rituale e tutto torna a posto. E tutto torna a posto, no? Che è forse un reiterarsi del comportamento dell'Italia, di noi tutti, non lo so questo. Vabbè, non ci facciamo sempre troppo male, è facile, è normale, abbiamo avuto una sputtanata enorme, stratosferica, è logico che adesso cerchiamo di dare maggior visibilità possibile al momento in cui questa roba esplode. Io, più che vedere la metafora del raddrizzamento, mi sono già espresso in questo, vedo la necessità di far sparire dal luogo del delitto le tracce del cadavere, scomparirà, sarà dissolta, non se ne parlerà più, o perlomeno se ne parlerà soltanto con grande rispetto e grande pensiero per le persone che sono scomparse. Kevin Rebello, buongiorno. Buongiorno. Kevin Rebello, fra tutte le persone che guardano e gioiscono e seguono questa vicenda, togliendosi un grande peso dallo stomaco, ha un punto di vista più grave, più personalmente sofferto. È un indiano da 15 anni in Italia, è fratello di uno dei dispersi. Il fratello faceva cameriere al bordo della Costa Concordia e adesso probabilmente è fra le due salme che stanno cercando di capire se è possibile recuperare. Quali sono i suoi pensieri mentre tutti gioiscono, stappano champagne e brindano? Lei ci fa ricordare che in realtà è stata una grande tragedia, con tanti morti, con tanta angoscia e con tanta disperazione. Sì, adesso speriamo che... Appena ho fatto auguri anche a Nick, tutta la squadra, e speriamo che appena dicono la via per iniziare le ricerche sotto la nave, appena messo in sicurezza, cerchiamo di capire qual è la situazione là sotto, perché dopo 20 mesi non è una cosa molto semplice, non è che i corpi rimangono per 20 mesi così sotto la nave, diciamo, no? Anche in acqua, appena la natura fa il suo corso, allora dobbiamo anche aspettare. Io sono fiducioso, però so anche la natura non è che è così semplice. Speriamo che qualcosa, almeno qualcosa dei parti, magari dei resti del corpo, si troviamo qualcosa sotto là. C'è da dire, non so se questo potrà sembrarle banale, che alla fine i morti in mare li riprende sempre il mare, è sempre stata la legge. Sì, questo lo so, anche se sono morti per una sciocchezza madornale, non certo per qualcosa che ha a che fare con la gloria dei morti in mare o morti per situazioni di lavoro, sono morti per una cretinata, per una sciocchezza, per una stupidaggine, per un gesto idiota di fare l'inchino con la nave nelle prossimità di alcune coste, ritualità che non mi sembra ancora scomparsa, non mi pare che poi il lutto e la tragedia abbia tolto questa abitudine, però fa parte di una sorta di marketing croceristico, sembra che sia inalienabile. Però penso che lei abbia già comunque elaborato il fatto che suo fratello in questa tragedia è stata una delle vittime, e questo probabilmente lo aiuterà magari a, avere una maggiore serenità nell'elaborare questo pensiero, il fatto che possa essere trovata dei resti di suo fratello? Sì, mio fratello faceva il suo dovere praticamente sulla nave. Non posso dire che è stata una vittima, perché non è l'incidente che è morto, l'incidente, diciamo, ha perso la sua vita aiutando persone, ha fatto il suo dovere. Allora credo che sanno tutti che ha fatto il suo lavoro, ha fatto il suo dovere, ha aiutato un sacco di persone ancora vivi che ci sono in giro adesso, magari anche neanche lo sanno che è stato mio fratello a dare una mano per salire sulla scialuppa o qualsiasi altra cosa. Allora magari anche un semplice gesto di dare un qualsiasi cosa, no? Anche una mano. Allora, e quello che è successo con altre persone che oggi non ci sono più, con tutto il rispetto, perché altrimenti la situazione era ancora più grave, se non c'era l'aiuto del Giglio, tutto questo, tutti morivano. Lei Kevin ha assistito a tutta la fase del, diciamo, del recupero della nave, è stato lì tutta la notte? Per quattro mesi, diciamo questi giorni, ieri dicevi? Sì, ieri. Ieri, guardi, io sono in un hotel, anche se è un ottimo hotel, ma non c'era niente in diretta, ma io ero su internet, cercavo di avere tutte le cose su internet. In TV qui non potevo vedere neanche una cosa. E ho seguito tutta la faccenda su internet tramite il computer, allora alcune cose che potevo seguire tramite il webcam. E oggi andrà al Giglio? Adesso sto partendo tra poco, perché come non potevo partire ieri, mi sono rimasto a Roma perché non erano traghetti ieri. Allora adesso parto tra poco, arrivo a Porto Santo Stefano e poi al Giglio più o meno per mezzogiorno dopo. La ringrazio, buon viaggio. Grazie. Kevin, e le auguro serenità. Maria Chiara, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, io questa mattina alzandomi la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a vedere il risultato della messa di galleggiamento della Costa Concordia. Sono stata soddisfatta perché una volta di più la nostra capacità tecnico-scientifica ha dimostrato, va bene, di essere al massimo della perfezione. Al di là di questo mi sono riportata un attimo e velocemente al discorso delle grandi navi Venezia, ho detto questa soddisfazione deve rimanere fine a se stessa nella maniera più assoluta e dobbiamo pensare e insistere sulla pubblica amministrazione che trovi il sistema veloce, immediato e altrettanto capace di soluzionare il problema degli inchini a Venezia. È molto chiaro, è un problema ancora aperto, l'abbiamo toccato, l'abbiamo lambito, ma ci fermiamo sul fatto. Cosa vi ispira l'osservazione di quello che è accaduto nel corso di un giorno e di una notte? Quella che era la metafora di una vergogna nazionale, improvvisamente avete visto come face, si passa dall'abbattimento all'enfasi. Oggi siamo tutti orgogliosi, tutti stretti, tutti vicini di fronte alla nave che è nuovamente in piedi, anche se è un relitto squarciato. Fabio. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo innanzitutto fare ancora le condoglianze a tutti i parenti delle vittime e dire sì, certo, quello che sono riusciti a fare in pochi mesi e aver raddrizzato la nave è stata una cosa che mi riempie di orgoglio e mi fa molto piacere. Nello stesso tempo però speriamo che non succedano più cose di questo genere perché non devono assolutamente succedere. Non dobbiamo diventare orgogliosi per una cosa che poi... Che l'orgoglio e l'euforia non ci faccia ricadere nell'errore. Esatto, vediamo... perché poi per colpa di un tra virgolette incapace, per un errore anche di 10 secondi, ha causato quello che è causato. Questo c'è un processo in corso, saranno i giudici a stabilire i termini delle incapacità, non sta a noi. Raffaella Caranda, sì. Velocemente, Raffaella sta seguendo la conferenza stampa, ci hanno detto la riprendiamo immediatamente dopo le informazioni della borsa, a questo punto le diamo volentieri e fra un po' spero dai miei ascoltatori di avere altre letture, non siano quelle solite, quelle dell'orgoglio, quelle dell'improvvisa euforia per un gesto molto mediatico ma anche molto realmente concretamente pieno di valore non siano pari a quell'abbattimento generale nazionale che abbiamo seguito e registrato al momento dell'affondamento della Costa Concordia. Melog, la realtà condivisa. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto. 800 24 00 24, stiamo revocando quella che è stata la tragica e a volte anche, ahimè, tragicomica epopea della Costa Concordia. Ricordate, al tempo della famosa telefonata fra il capitano Gregorio De Falco, dalla capitaneria di Porto Livorno gridava: cazzo, salga a bordo. Questa diventò una frase simbolica, diventò quasi un elemento distintivo di una parte dell'Italia che si ribellava ad essere schettinizzata. Quante trasmissioni, quante letture, quante opinioni furono espresse sull'Italia divisa fra le due anime, l'Italia di De Falco e l'Italia di Schettino. Poi oggi queste Italie sembrano improvvisamente scomparse, sembrano appartenere alla storia. Perché? Perché sta sorgendo un nuovo mito, l'Italia stretta nell'orgoglio nazionale attorno al recupero del relitto. Un relitto che poi, dopo essere stato celebrato, dopo la sua resurrezione, anzi resumazione, perché niente risorge per essere destinato poi alla rottamazione, quindi viene resumato per essere poi riaffidato appunto agli elementi naturali in cui muoiono nella grande prateria di tutte le navi, sarà tagliata a pezzi, segata, rifusa, rivenduta, diventerà materiale per ricostruire probabilmente altre navi. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, ma guardi, io non sono poi così contento, nel senso che a me, secondo me, fare tutta questa festa per questa cosa non ha nessun senso. Beh, lei il senso invece è molto comprensibile, onestamente. Ma guardi, può dire esagerata, ma il senso c'è. Esagerata, ma non dovrebbe stare lì a far festa chi comunque è causa di quello che è successo. Beh, non è, chi è causa non fa festa, io non credo che in questo momento stiano brindando champagne anche le persone direttamente interessate al naufragio. Fa festa chi è diventato protagonista della resumazione, sì, ecco. Sì, ma il fatto che comunque la dirigenza Costa si faccia, quindi si ponga, abbiamo facce, alla fine hai creato il danno, lo devi risolvere, zitto in silenzio e vai a casa. Vabbè, secondo me. Lei capisce. Poi chi è l'Italia? Lo sappiamo tutti, industrialmente, tecnologicamente, lo stile italiano, lo sappiamo cosa siamo noi italiani. Però mi permetto una cosa, poi la lascio finire. Lei capisce, sì, che l'episodio gravissimo, drammatico, tragico, grottesco del naufragio della Costa Concordia ha avuto una esplosione mediatica fortissima, di cui molte persone Io l'ho presa quella nave, eh. Sì, ho fatto 8 crociere coi Costa, cioè sì, non ne ho fatta. No, io quella nave l'ho presa, quando l'ho vista adagiata sul fondo mi sono anche commosso, perché io lì dentro sono stato, ho vissuto una bella vacanza. Ma io questo è comprensibile, c'è un senso, io questo lo capisco. Lei capisce però che l'immaginario però generale, che è stato così fortemente caricato di tutto quello che lei sta provando, che noi abbiamo raccontato, abbiamo approfondito, su cui abbiamo fatto un'infinità di trasmissioni, oggi deve avere una soluzione, qualcosa. Perché si cerca, sì, sempre il cadavere di uno scomparso? Che l'elaborazione, per noi almeno, non è completa e totale finché non si ha prova tangibile però dello scomparso. Adesso il cadavere è fuori. Sì, però sa qual è il punto, secondo me? Il punto è che lì ci sono morte delle persone. Allora, non ci fosse morte nessuno, potrei capirlo e condividerlo appieno, questa gioia, questa cosa. Ma nel momento che ci sono morte delle persone, cioè sinceramente, non so quanto... Dice questo, secondo lei meriterebbe un profilo leggermente più modesto, più basso. Accetto e condivido, dire in parte. L'abbiamo fatta all'inizio della riflessione, abbiamo parlato con il parente di una delle vittime scomparse, le due vittime scomparse. È vero, in tutta questa grande festa, ma come sempre accade alla fine delle guerre, come sempre accade alla fine delle tragedie, come sempre accade nei momenti risorgimento, passano purtroppo, ahimè, nell'euforia collettiva i momenti di riflessione sulle vittime di un episodio. Lei sa, io penso che i sentimenti popolari siano manichei, basici, definiti. Non si può vivere allo stesso tempo l'euforia e la gioia e vivere allo stesso tempo un senso di riflessione sulla scomparsa. Magari domani, una volta finito il momento, abbassati i riflettori, si ritornerà a parlare delle vittime. Stiamo maneggiando opinioni di massa, non opinioni individuali che sono suscettibili di mille sfaccettature. Maria. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. A me ha colpito molto l'aspetto come è stata affrontata questa vicenda da un punto dei giornalisti internazionali. Ieri ho sentito una giornalista francese che diceva: ah, finalmente parliamo in Italia di qualcosa di buono, come se l'Italia, diciamo, non fosse capace di fare qualcosa di buono, non fosse, diciamo, preparata neanche da un punto di vista tecnico-ingegneristico, e si mettesse in discussione il fatto che non potessimo riuscire a tirare su una nave. Ecco, a me ha colpito questo aspetto che l'Italia, diciamo, viene sempre vista, ci deve essere sempre questo aspetto, diciamo, da un punto di vista internazionale, per cui siamo un paese inefficiente. Esatto, ognuno si porta il suo retaggio di luoghi comuni, sia in attivo che in passivo, che in positivo che in negativo. E certo, siamo vittime, molto spesso non facciamo nulla per smentirlo, di un enorme luogo comune, che siamo il paese dell'inefficienza, della burocrazia, delle lungaggini, delle vie non razionali, ma delle vie barocche, spiraliformi per raggiungere gli obiettivi. E quindi lei capisce che questa mattina è logico che l'evento ha una sua amplificazione nazionale abnorme anche rispetto alla sua portata. Giacomo. Buongiorno, volevo portare il mio contributo a questo argomento, visto che sono stato domenica al Giglio per questioni di lavoro, e secondo me una volta tirata sulla nave bisognerebbe trovare una soluzione diversa, del tipo trasformarla in un museo, per esempio, mi verrebbe in mente, con un design accurato e adeguato al luogo, perché sono stato l'anno scorso a Stoccolma e ho visto un museo costruito intorno a una nave. Era molto bello e frequentato. Guardi, io secondo me qualcuno ci può avere anche pensato, al di là dell'aspetto economico e industriale, però qualcuno, mi permettete la libertà, lo vedrebbe un po' come il museo della sfiga. Questa nave non è che nasceva sotto ottima luce, cioè nel 2008 aveva avuto già un problema a Palermo e aveva buttato giù un altro pezzo di nave, nel 2010 un passeggero c'è morto sopra, non so se è suicidato o caduto giù, nel 2010 sempre nel porto di Savona ha dato una botta a una gru e è caduto un altro pezzo. Lo sa, le leggi del mare sono implacabili. Una nave che ha seguito tutto questo iter e poi è rimasta per un anno e mezzo a pancia all'aria come simbolo perenne del naufragio, non credo che qualcuno amerebbe di farne il museo, se non a scapito naturalmente di chi l'ha costruita, fatta, immaginata. Infatti sarebbe a cura della costa il... Vabbè, l'adeguamento, ovviamente. Questo è il suo consiglio. Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Mi sente? Certo, l'ascolto. Niente, ecco, io sono uno di quelli che ha visto poi questa notte la rotazione della nave e mi è venuto un po' in mente quei momenti là di quel giorno lì, perché appunto ho il figlio che lavora ed è stato naufrago per Concordia. Quindi lei ha vissuto sulla sua carne anche il momento del naufragio, aveva suo figlio a bordo. Esatto, lui lavora con quella, con la compagnia Costa, e 20 anni aveva, quindi giovane, e mi sono dimenticato un po' tutte quelle paure di quella sera lì. E rivedendo un po' così la nave questa mattina raddrizzata, mio figlio poi mi ha chiamato stanotte e mi ha detto: mi fa un certo che rivedere la nave dritta, e soprattutto anche per quelle due persone che speriamo di qualche maniera riescono a recuperare. Suo figlio nel frattempo cosa sta facendo? Continua a lavorare per la compagnia? Sì, lui fa l'animatore dei bambini. Quindi ha continuato a fare crociere? Esatto, è in navigazione, ha 22 anni. Vedo che è cresciuto molto a livello, cioè dopo quello che ha subito è cresciuto come persona. Penso che un'esperienza farebbe venire i capelli bianchi, non soltanto crescere. E cosa le ha detto suo figlio di quella notte? In una sintesi della cosa più forte e più degna di essere ricordata. Ma lui si ricorda solo il fatto che è stato quei 20 bambini, praticamente lui faceva l'animatore dei piccoli quella notte lì, e assieme ai suoi colleghi ha riportato questi 20 bambini ai genitori, perché praticamente quella sera stavano giocando in una sala apposta nello SPOC. Quindi per lui la sua missione era quella, nell'emergenza, di portare a termine quello che gli avevano insegnato. Quindi lui aveva in carico quei 20 bambini e doveva riconsegnarli perlomeno ai genitori, dal luogo, esatto, di intrattenimento, di animazione. Sì, perché noi immaginiamo quella che è stata l'interruzione di una nottata di crociera. La crociera è un luogo, esatto, che ci si va per divertirsi, per essere spensierati, per vivere una vita al di là anche delle proprie possibilità di vivere vite fantastiche. È un'uscita dal mondo, e l'uscita dal mondo lo è stata a tutti gli effetti, e per molti è stata anche fatale, e questo mi fa riflettere. Invece suo figlio questa notte è stato ad assistere al risollevamento in televisione? Esatto, sono venuti un po' di privi, nel senso che ci sono venuti in mente un po' quegli attimi là, e chiaramente è difficile dimenticare, però da un certo senso vedere la nave nuovo dritta e cercare anche così dare una mano agli abitanti del Giglio, che sono stati molto cortesi in tutto quanto da quel momento ad oggi, ha ringraziato tutti gli ingegneri, il personale, tutti quelli che insomma in questo periodo qua si sono prodigati a cercare di risolvere praticamente questa questione. Grazie. Fernando, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Sì, io volevo solo partecipare il mio stato d'animo, dire questo, che non mi ha risollevato per niente. Lei è un marinaio. Io ho fatto 2 anni in marina sulle navi da guerra e non mi ha risollevato per niente il fatto di aver raddrizzato la Costa Concordia, perché il naufragio è stata una cosa che ha buttato letteralmente a terra il mio stato d'animo. Ho visto proprio in schettino un'Italia menefreghista, un'Italia brutta, un'Italia che no, praticamente il mio stato d'animo è questo: non mi sono risollevato per niente vedendo la Concordia raddrizzarsi. Secondo lei, diciamo, l'onta che il suo spirito marinaro ha sentito così fortemente offesa, non è ripulita da una cerimonia di sollevamento? Non è ripulita da questo evento, soprattutto il fatto che avrei voluto che il direttore dei lavori si chiamasse Rossi, Molinari, ha capito anche... Vabbè, ma adesso non dobbiamo essere legati così allo spirito della stirpe così, del campanile. Se un bravo sudafricano con esperienza che non abbiamo noi di risollevamento di navi, cioè, che ha un'esperienza internazionale, ha sollevato non si sa quante, non ci vedo nulla di strano, non è che dobbiamo fare dei recinti, o italiani o niente, o italianissimo risollevamento. So che andiamo in un'altra pericolosa metafora. Ci fermiamo un istante, ma arriva un suggerimento via Facebook... La guerra ripulita, portata al largo e affondata per farne un grande museo subacqueo. Al Giglio manca un bel relitto da visitare, sarebbero soldi e memoria. Questa è un'altra proposta. La nostra fantasia, vedete, la prima ascoltatrice si preoccupava dove la taglieranno a pezzi, un altro ascoltatore ci dice facciamone un museo subacqueo. Ma probabilmente dovranno anche rientrare un po' nelle spese, quindi forse sarà molto più conveniente venderla a pezzi. Melog, la realtà condivisa. .800240024 diamo il nostro contributo alla grande festa collettiva, al grande momento di giubilo e anche di elaborazione di un lutto che pesava, anche se in percentuali discontinue sulle nostre coscienze, era quella di vedere la Costa Concordia adagiata al largo del Giglio, che in fondo non faceva piacere a nessuno, anche se era diventato un luogo di turismo morboso, andavano tutti a fotografare il relitto, proprio il relitto ci pesava molto, era il simbolo di una nostra sconfitta. E oggi, nonostante gli ascoltatori che dicono che è un'esagerata copertura mediatica, lasciate che si celebri l'apoteosi della riscossa rispetto a quel momento. È comprensibile, è da capire. Raffaella Calandra, l'inviata di Radio 24, si trova al Giglio, sta seguendo la conferenza stampa. Raffaella, ci stai ascoltando? Sì, sì, sono qui Gianluca. Senti Raffaella, si pongono gli ascoltatori tutti il grande problema di cosa accadrà adesso. La nostra molteplice ingegno, partono le ipotesi più fantasiose, farne un museo sottomarino, dove la taglieranno a pezzi, cosa succederà, perché non rimane come eterno monito. Si è detto in conferenza stampa qualcosa rispetto all'esito poi di questa resurrezione? Sì, allora, innanzitutto i tempi, che sono non prima della prossima primavera, la nave verrà portata via dal Giglio. Non si sa ancora in che modo, se trainata oppure con un complesso bacino che non so, diciamo, dirvi di che tipo di ingegneria sia, che la trascinerà via comunque dalle piattaforme dove resterà per tutto l'inverno. La destinazione ancora non è nota, perché c'è un po' una sfida tra più porti italiani e non solo per lo smaltimento di questa nave, perché è ovviamente un grandissimo affare, ma in realtà il problema è che richiede anche delle circostanze tecniche che non sono così semplici da ritrovare nei porti, perché ricordiamolo che è una nave di 300 metri per 11 piani di altezza, comunque tra Piombino, Castellammare in Campania, anche la Sardegna, ci sono varie ipotesi. Sì, mi hanno scritto molti sardi, la porteranno da noi. Certo, non è che la smonti con Black & Decker, diciamo, una cosa del genere, bisognerà anche che sia meditata questa decisione, però accontentiamoci in questo momento del fatto che stia già bella in piedi. Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Orgoglioso di quello degli eventi del recupero e della raddrizzatura della nave, mi sto ponendo un grosso problema. Stanno parlando di smantellamento, do assolutamente ragione alle alternative allo smantellamento. A parte i costi di centinaia e centinaia e poi ancora centinaia di milioni di euro, il problema è il riciclaggio dei materiali. Noi non siamo attrezzati in Italia per poter riciclare tutto questo materiale. Beh, io penso, guardi, che qualcuno ci penserà. Io vedo, se uno fa una ristrutturazione di un gabinetto a casa sua, comunque deve attenersi a delle regole precisissime nello smaltimento delle piastrelle, del legno, del piombo, della ceramica. Io penso che le leggi che valgono per le nostre case varranno anche per lo smaltimento di una nave. Ci sarà chi farà osservare le regole. Non credo che buttino materiali inquinanti così, con l'occhio del mondo che sta su questa cosa. Però volevo un attimo fermarmi su un aspetto che forse vale la pena di osservare. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Danilo Masomasotti, lo conoscete, è una nostra presenza costante, passerà alla storia per aver scoperto un reperto antropologico contemporaneo, quello degli Umarell. È una sorta di spirito nazionale di persone che hanno raggiunto la pace delle attese professionali esistenziali e passano la vita osservando il mondo con le mani dietro la schiena, specializzati nell'osservazione di cantieri stradali. Ha scritto Danilo Masomasotti nel suo profilo Facebook sollevamento della Costa Concordia e la Woodstock degli Umarell. Vediamo di capire meglio perché. Sì, ieri è stata una grande festa per gli Umarell di tutta la nazione, che di solito sono abituati ad osservare le maestranze al lavoro su terra. E stavolta invece hanno visto dei lavori su una nave, sul mare, e li hanno potuti osservare comodamente da casa loro oppure nei circoli, mentre altri Umarell stavano giocando a carte, c'era la televisione puntata sulla diretta del... Non è banale però, Danilo, sembra che voglia chiudere con una faccezza. Io ho notato il polso degli interventi del nostro pubblico, mi hanno sorpreso. Lo spirito umarellico, visto che ormai appartiene al vocabolario della lingua italiana, è trapelato da questo. Chi si pone il problema di come la smaltiscono, di come il problema e di quali saranno i rifiuti inquinanti e come li smaltiremo, chi suggerisce di fare esattamente il museo sottomarino, esattamente come l'Umarell in una pozza aperta in una strada di Bologna dice all'operaio: attento a quella tubatura, non sai bene come si tratta. È esperto in tutto, siamo esperti in tutto, anche il recupero e smaltimento di navi? Sì, siamo esperti in tutto, gli Umarells, perché essere Umarells viene erroneamente identificato come il pensionato che non ha niente da fare e sta con le mani dietro la schiena a guardare i lavori in corso. In realtà l'umarellismo è proprio una cosa che uno ha dentro, è una cosa che uno ha, e quindi diventare esperti di smaltimento rifiuti di una nave è un po' come quando ci sono le partite dei mondiali dove diventano tutti dei CT nazionali. Ecco, questi sono aspetti dell'umarellismo che ognuno di noi porta, e questo episodio li ha fatti emergere. Allora Danilo, vediamo con Raffaella Granda proprio nell'ultimo minuto. È vera questa vicenda qua? Quanto ci sarà di tempo perché potremmo osservare ancora la nave in piedi e stare lì con le mani dietro la schiena a dire: ma chissà cosa succederà? Fino alla prossima primavera di sicuro. La speranza dell'Isola del Giglio è che la nave venga portata via entro giugno 2014, quindi prima della prossima stagione estiva. Quindi ci saranno ancora diversi mesi con la nave che dovrà far fronte alle mareggiate, al tempo brutto dell'inverno, e anzi questa sarà anche una delle prossime sfide immediate, cioè quella di stabilizzarle ulteriormente sulle piattaforme per cercare anche di evitare che non produca danni, perché chiaramente le condizioni meteo invernali sono diverse e una nave di quel tipo non è una nave diciamo sicura e blindata, non è una nave così stabile come tutte le altre. Ma poco fa proprio ci hanno rassicurato anche sugli interventi che saranno fatti per adagiarla in modo più stabile sulle piattaforme che ora la reggono. E questo ci rassicura anche perché vuol dire che lo spettacolo continua. Abbiamo davanti ancora molti mesi, abbiamo una Pasqua in cui potremmo organizzare dei viaggi per andare a vedere la Costa Concordia prima che la portino via. Avremo riflessioni da fare, avremo mareggiate da osservare, avremo belle giornate da guardare, da fotografare, avremo dirette televisive, avremo inviati, avremo ancora un sacco di racconti da fare su questa nave che in fondo ci ha fatto molto vergognare, molto soffrire, però in questo momento ci permette, almeno questa mattina, di avere un momento di soddisfazione. Grazie Raffaella Calandra, grazie a tutti gli ascoltatori, a domani.